piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Dico, non mi si mette tanto vicino, se no gli attacco la vecchiaia. Via dal container, da quel grigio che le aveva rattristato le giornate. E adesso non c'ho nulla, dove vado io? Mi ridassero sta casetta perché la chiedo con tanto amore che ne ho proprio bisogno. Il terremoto prima, la burocrazia dopo, avevano demolito tutto il suo piccolo mondo. Che fa la gente, mica tutti ti vogliono bene. Non riusciva proprio a capire perché non le concedessero di restare almeno in quella casetta di legno costruita per lei sulla sua terra. Mancava solo qualche carta. Non hanno avuto un pizzico di amore verso di me. Ma ora qualcosa sta cambiando e nonna Peppina potrà festeggiare il suo 96esimo compleanno con la certezza che la sua battaglia è diventata la battaglia di tutti. Tra le misure presentate a favore delle zone terremotate, il governo ha introdotto una norma già ribattezzata la norma Salva Nonna Peppina. Consente che casette come la sua restino in piedi finché non siano di nuovo agibili quelle danneggiate dal sisma. Questa è la vera casa di nonna Peppina, che è inagibile. E cancella quel senso di ingiustizia che tutti abbiamo provato vedendola così. Se la salute mi assiste, ancora resto qui. Popolo dei nonna peppinisti, avete vinto. La politica brancola, i partiti sono allo sbando, i movimenti sono immobilizzati. Soltanto un moto d'opinione in Italia ha trionfato, il nonna peppinismo. Nonna Peppina ha vinto e con lei tutti i nonna peppinisti. Il governo ha annunciato un emendamento che permetterà alla nonna più famosa d'Italia di rimettere piede nella bella casetta di legno che la ospitava dopo il terremoto. Finalmente la nostra vecchina potrà affrontare i rigori dell'inverno nel tepore di un ambiente amico e accogliente. Il temibile ghiaccio rimarrà chiuso fuori dalla porta. I geloni saranno un lontano ricordo. I lupi famelici ululeranno invano sui monti, mentre nonna Peppina se ne starà felicemente imbacuccata sotto le coperte a sorseggiare il brodo di gallina. Voi, nonna peppinisti, telefonate in diretta all'800 24 0024 ed esprimete la vostra gioia, ma anche la vostra generosità. Natale è alle porte. Che cosa vorreste donare a nonna Peppina per rendere la sua casetta più accogliente che mai? Il popolo dei nonna peppinisti è un popolo generoso. Il popolo dei nonna peppinisti sa essere grato alla sua musa ispiratrice, al suo leader assoluto, alla persona che ha dimostrato che in Italia si può fare. Basta buona volontà, basta determinazione. Nonna Peppina ha sfidato il gelo, ha sfidato i lupi, ha sfidato il terribile rigore dell'inverno che arriva nelle nostre montagne in maniera implacabile. E nonna Peppina ha vinto. Avete sentito, per chi non avesse ben capito, è arrivata la norma che risolve il caso nonna Peppina. E la signora Peppina, 95enne di San Martino a Fiastra, in provincia di Macerata, che è diventata il simbolo non soltanto degli sfollati, ma di tutti gli italiani che hanno voglia e orgoglio e dignità di dire ci siamo, facciamo sentire che ci siamo. Non ci sono più partiti, anche i movimenti, cosa sono arrivati questi movimenti? Diventano la brutta copia dei partiti, la politica si accapiglia, la politica allo sbando. Il nonna peppinismo al momento è l'unico moto di popolo che viene dal basso, con un simbolo forte, una donna anziana, anzianissima, 95 anni, che è l'antitesi di tutto il giovanilismo, di tutti gli slanci vitali, di tutte le forze distruttrici. Nonna Peppina è il simbolo di quelli che ce la possono fare. Beh, è riuscita in qualche maniera nell'emendamento del governo al decreto fiscale sul sisma, che sono ben 21 pagine che riordinano tutta la legislazione in campo di sisma. C'è spazio per nonna Peppina, anzi uno spazio preponderante. Ora ci può essere libera edilizia agli immobili costruiti nelle zone colpite al terremoto, quindi una grande sanatoria, senza appunto dover essere obbligati a rimuovere le casette abusive entro 90 giorni. La rimozione potrà avvenire soltanto una volta ultimati i lavori di ricostruzione. C'è tempo, c'è tempo, per adesso c'è una sanatoria, non si butta giù niente e quindi nonna Peppina mantiene la sua casetta. Ma noi vogliamo fermarci qui, non vogliamo essere grati a nonna Peppina che ci ha dato finalmente una sorta di briciolo di speranza in questo buio totale in cui tutti siamo preda dell'abbandono e della disperazione. Beh, fate un gesto di generosità. Cosa mai vorreste dare o regalare a nonna Peppina per rendere più accogliente la sua casetta? L'inverno è ormai nel suo apice, il Natale è vicino. Vogliamo che il Natale nonna Peppina, che tanto ci ha dato e tanta speranza dal nostro paese, abbia un senso. Cosa dareste a nonna Peppina? Accetto le simboliche offerte, poi materialmente ci pensate voi, non è che io faccio il postino o il trasportatore, ma immaginate, descrivete, pensate di cosa potrebbe aver bisogno adesso nonna Peppina, a cui tanto noi dobbiamo. 800240024, noi ripercorriamo quello che è stato il cammino del movimento di nonna Peppina. Ciao Peppina, come ti senti? Come stai? Male. Male. Perché mi hanno sfrattato dalla mia casetta di legno dove vado mo io. Amore. Che la casa è inagibile. La casetta nel bosco per te. E tu sei andata a vivere da là, giusto? E tu sei felice dentro questa casetta nel bosco? Sì, sto bene lì. E non mi muovo, neanche se mi mettono le manette. Nacque così nella più detestabile, da un punto di vista totalmente radical chic, televisione nazionale popolare, si è cominciato a dare spazio a nonna Peppina, questa signora che non tollerava il fatto che qualcuno l'obbligasse a lasciare la sua casetta di legno. E su nonna Peppina si è creato un movimento prima contaminato e cavalcato dalla politica, tutti i politici più vicini comunque alla causa della restituzione della casetta a nonna Peppina, hanno fatto la spola verso la casetta nonna Peppina, hanno preso il caffè con lei, sono fatti vedere, si parlava di persone che sarebbero stese per terra per evitare al bulldozer di abbattere la casetta nonna Peppina. Poi a un certo punto la politica si è dimostrata come evanescente e nonna Peppina è stata lasciata sola, sola a se stessa. E poi è sorto il nostro movimento, il movimento nonna Peppinismo. Ti dico, abbia pietà di una povera vecchietta di 95 anni. Voglio restare qui, sono stata 75 anni, ma il 7 ottobre fa 75 anni. E voglio morire qui, voglio morire qui. Aggiungiamo qualcosa a questa giornata di tripudio, a questa giornata di gaudio. Cosa fareste ancora per nonna Peppina? Perché questo è il momento della restituzione. Oggi è un termine psicanalitico che va molto di moda, la restituzione. La restituzione è quando tu ti sei fatto mettere sul lettino per un po' di tempo, alla fine ti dicono più o meno che morte di morire, poi non muori mai, rimani sempre lì. Oggi è la restituzione nonna Peppina. Attraverso cosa vorreste fare la restituzione nonna Peppina? Maurizio, buongiorno. Buongiorno, io avevo chiamato per chiedere una precisazione oltretutto, perché stamattina ho letto la notizia su un quotidiano dove diceva che l'emendamento era stato proposto dalla Lega, voi avete detto dal governo, volevo un chiarimento di questo. Poi, siccome ho avuto l'esperienza... Cioè lei cosa vuole, scusa, vuole mettere la bandierina su chi ha salvato nonna Peppina? No. Che vuole, faccia capire. No, così per chiarezza, per sapere se... Ho detto è stato emesso il governo, poi chi l'ha proposto, per me è indifferente. Può essere, sì, sia stata la Lega, allora. Qual è il problema? Così, un semplice chiarimento. Cioè, poi... non è un semplice chiarimento, apra il giornale o legga nel particolare preciso. Stiamo parlando noi di qualcosa di nuovo, totalmente diverso rispetto a tutta quella che è la politica. E ci rimette dentro la vecchia politica, lei, la Lega. Che è stato fatto una buona azione. 40 anni fa è già stata fatta in Friuli. Sì. Bastava che, invece di parlare tanto gente inesperta, aveste chiamato gli amministratori che hanno ricostruito il Friuli e tutte queste cose le sapreste. Quindi buongiorno. Lei, tipo lei? Thank you. Si è svegliato male questo signore, non ha capito lo spirito del nonnapeppinismo. Il nonnapeppinismo va oltre i partiti, oltre la politica. Sì, infatti, ecco, ho davanti a me un giornale che dice l'emendamento leghista. Sì, l'emendamento l'ha fatto la Lega. Salvini è stato il primo a andare lì, l'ha cavalcata per primo la storia. Ma cosa gliene frega nonna Peppina chi ha proposto l'emendamento? Non è che adesso lei andranno lì e gli chiederanno: nonna Peppina, ci dai la possibilità di avere qualche voto in più, ti presenti per noi? Nonna Peppina è al di sopra di queste cose. Cosa gliene importa la politica? Sì, chi l'ha fatto? Ha fatto una buona azione. Le buone azioni non richiedono comunque uno sbandieramento. Il signore non so cosa volesse, voleva che fosse chiamato lui a dire come si deve fare. C'è sempre qualcuno che a posteriori si presenta. Giuseppe. Buongiorno. Sì. Io vorrei solo sapere se noi abbiamo un Presidente della Repubblica qua in Italia, perché in circostanze così gravi, perché per me questa è una circostanza... Cioè la casa di nonna Peppina, dice? Sì, sì, la casa di nonna Peppina. Certo. Siccome lei, tra l'altro, ha detto a questo signore non mi interessa chi l'ha fatto, chi non l'ha fatto... Sì, ma non mi sembra in questo momento fondamentale, sinceramente. Ho pochi secondi per parlare. No, ha tutta la vita, se vuole, la sto ascoltando. Grazie. Cioè, secondo me invece ha importanza, ma al di là che sia stata la Lega o chi che sia, non mi interessa. Scusi, questo. No, ferma un attimo. Ma dice perché in questo momento l'ha capito il tono della trasmissione. Dovremmo mettere la bandierina di chi è stato tanto bravo a presentare l'emendamento. Ma è fondamentale, secondo lei, in questo contesto? No. Ma in un contesto politico, sì, domani andranno tutti a riscuotere il ticket, abbiamo salvato la vita a nonna Peppina, ma le sembra che in questo clima, per come è cominciata la trasmissione, per me può essere fondamentale? No, me lo dica sinceramente. No, sono d'accordo. Io allora... non accetto però che sia stata mandata fuori, no? Sì. Per poi rimetterla dentro, ma al di là di chi è stato. Sì, ma l'iter mi sembra chiaro. Poi firmiamo, perché non può fare una questione di licenze edilizie. C'erano delle case abusive, la legge diceva che andavano abbattute. È stato fatto un decreto, le case non vanno più abbattute, nonna Peppina rimane nella casa, ma mi sembra un iter abbastanza normale. Penso che l'accelerazione di questo decreto sarà reso senz'altro necessario, che non sarà stata l'unica avere una casetta abusiva, visto che ancora le case ufficiali non sono state rimesse a posto. Io ho avuto una casa terremotata in Abruzzo e so che ci sono voluti anni perché fosse rimessa a posto la casa, quindi sono tempi molto lunghi. Hanno fatto una sorta di sanatoria perché in quel suo momento, immagino, non c'è altra soluzione. Nonna Peppina è stato l'elemento simbolo che ha fatto sì che si accelerasse questo processo, ma non mi sembra in questo caso sia nemmeno elegante dire è stato bravo quello, è stato cattivo l'altro. Usciamo un attimo, siamo leggeri in questo, noi stiamo ironizzando e scherzando su come sia diventato simbolo comunque di una sorta di capacità di muovere l'opinione generale, quindi muovere la politica, una signora di 95 anni, quando in questo momento in realtà gli esempi dei portabandiera della politica sono in nome del giovanilismo, l'efficientismo, la rivoluzione, la rottamazione. Ecco, si parla di tutto qualcosa che deve rimettere in discussione il passato. Nonna Peppina, che è una sorta di reliquia del passato, ha smosso qualcosa. Questo è il senso. Vuole concludere? Visto che non ho l'impressione. Non ho iniziato, mi scusi, ho parlato io, l'ho ascoltata volentieri. No, le ho dato una risposta, penso. No, ma su quello che dice lei... Su quello che dice lei, diciamo, tutte le case sul litorale in Sicilia, piuttosto che quelle sono lì ancora, però lasciamo perdere questo che non è il discorso. La mia domanda specifica è: dov'è Mattarella in una circostanza grave? Sì, dov'è Pertini, il nostro Pertini, che me lo ricordo ancora oggi? Si è andato da Manfredino Rampi, infatti è morto lo stesso. Come? È andato davanti a Raffredino Rampi, ha smosso tutte le liturgie curilanizie. Un Pertini del 2017 sarebbe andato lì dalla signora, ma perché dovrebbe andare... avrebbe chiesto scusa, ma scusa di che? Avrebbe detto, ma scusa di che? No, scusi, no, Giacomo, no, perché non sopporto il luogo comune. Perché il Presidente della Repubblica va andare da nonna Peppina? Mi spiega perché? Perché è andata dalla D'Urso, è diventato un personaggio. Le spiego perché. Perché questa nonna nonnina, a sue spese, si è fatta una casa, considerando che la sua è stata distrutta, sì. Nessuno l'ha aiutata, ha 96 anni, cosa deve fare? Cosa deve fare? Quello che ha fatto, esattamente quello che ha fatto. Ecco, perfetto. No, io voglio dire solo quello. Per me Pertini, con una nonna di 96 anni, lei rimpianga Pertini. Non doveva uscire, poi per l'amor del Signore. Sì, no, invece posso dire una cosa. Mi sta rovinando il clima del nonna peppinismo. Io volevo giocare a fare il fan di nonna Peppina. Io invece la riflessione, visto che pongo sempre dei dubbi, è che in Italia ci vuole sempre un elemento simbolico forte, sempre qualcosa di emotivamente forte. Ci voleva la signora anziana strappalacrime perché alla fine si ponesse l'attenzione sul problema che nelle zone terremotate devono stare nelle case abusive perché le case regolari ancora non ci sono. Ecco, questo mi ha fatto un po' sorridere. C'è la Barbara D'Urso, ci voleva tutta la televisione della lacrima, del piagnisteo, del casumano perché si muovesse la cosa. Io ho ironizzato su questo, ma vedo che l'ironia è la merce più difficile a spacciare in questo momento, ma evidentemente nessuno ha capito. A me fa orrore che esista il nonna peppinismo, se vuol saperlo onestamente. Le cose dovrebbero andare in modo diverso, ma visto che non lo volete capire, vi dico esattamente come la penso io. Nonna Peppina in questo momento ci divertiamo, ci scherziamo, siamo contenti che stia bene, ma c'era bisogno di nonna Peppina per risolvere un problema? Questa è la domanda. 800 24 00 24, che andiamo avanti la nostra missione. Preparate il regalo di Natale per nonna Peppina. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Nonna Peppina ha vinto e con lei tutti i nonna peppinisti. Il governo ha annunciato un emendamento che permetterà alla nonna più famosa d'Italia di rimettere piede nella bella casetta di legno che la ospitava dopo il terremoto. Finalmente la nostra vecchina potrà affrontare i rigori dell'inverno nel tepore di un ambiente amico e accogliente. Il temibile ghiaccio rimarrà chiuso fuori dalla porta. I geloni saranno un lontano ricordo. I lupi famelici ululeranno invano sui monti, mentre nonna Peppina se ne starà felicemente imbacuccata sotto le coperte a sorseggiare il brodo di gallina. Voi, nonna peppinisti, telefonate in diretta all'800 24 00 24 ed esprimete la vostra gioia, ma anche la vostra generosità. Natale è alle porte. Che cosa vorreste donare a nonna Peppina per rendere la sua casetta più accogliente che mai? (800) 24 00 24, riprendiamo il senso più profondo, genuino, sincero, spontaneo, amabile di questa trasmissione parlando del nonna peppinismo. Ricordo che a tutte le persone mi stanno scrivendo dicendo devi dire che l'emendamento è stato proposto dalla Lega. Dico, ma vicino a Natale non è bello impugnare la primogenitura della propria generosità, la beneficenza, gli atti di generosità, gli atti di attenzione comunque alle persone fragili si fanno nell'anonimato. Perché? Perché procurano dei vantaggi dal punto di vista spirituale, etico, non dal punto di vista politico. Perché se si fa per la politica, allora non è proprio così bello dire che lo si fa. Giacomo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Allora, cominciamo. Lei cosa darebbe a nonna Peppina per festeggiare questa giornata di vittoria? Guardi, io è da un bel po' di tempo che sto mettendo via un po' di soldini per comprarmi il benedetto orologio che tanto volevo. Cos'era, un Rolex? No, era un orologio modesto, mi piacevano quei tipi come si usavano i nostri nonni, bombati, sottili, tutti un po' particolari. Da taschino, un orologio da taschino? No, da polso. Un orologio vintage, però di bella marca, che costa molto. Qual era il budget per questo orologio? Guardi, io mi ero messo non più di 200 euro, l'avevo trovato scontato 167,50 euro. E già lo immaginava sotto l'albero di Natale impacchettato? Io me lo immaginavo già sul polso. L'avrebbe fatta felice? Mi avrebbe fatto molto felice, perché sono un paio di anni che non ce l'ho. Poi il sogno di una vita, Giacomo, possiamo dire che è il sogno di una vita, sì. Oh sì, può essere. Io con 4 figli e un lavoro precario, per me è il sogno della mia vita. Tutti i figli dicono, papà, cosa ci fai? Noi vogliamo dei regali, cioè, no, metto da parte. Ma i figli miei sono abituati a non averne, quindi. Quindi poverini, capito. Avranno detto, quindi, papà, no, risparmia per il tuo orologio, per noi siamo felici. Sì, questo è stato. Quindi diciamo, il sogno di una famiglia, il sacrificio di 4 bambini poverini, cosa pensa di farne? Regalargli alla signora. L'orologio stesso o l'equivalente? No, i soldi, chi so, 167 euro e rotti. Che se l'hai proprio tolti dalla bocca, come se hai tolto il pane dalla bocca. Ma lo faccio volentieri senza questo sì che è un vero gesto da nonno peppinista. Complimenti, la sua generosità l'ha salvato. Si compri l'orologio, dia retta, che è molto meglio. Ettore, buongiorno. Buongiorno a lei. Lei cosa regalerebbe? Ma io intanto mi lasci un attimo fare una piccola perplessità. Non è un problema chi mette la bandierina, non è obbligatorio dire chi ha messo la bandierina, sì, infatti, purché si è raggiunto l'obiettivo. L'obiettivo è stato raggiunto, punto. il resto è tutta aria fritta. Diciamo, nonna Peppina ha vinto, non ci sono altre persone. Basta, ha vinto, punto, basta. Questo sì che è questo. Però scusi, la destra in questo caso, la destra in questo caso cede al nonna peppinismo, sì. Esatto. Cioè lei è più nonna peppinista, scusi, lei è più nonna peppinista o più di destra? Più nonna peppinista, spero. No, in questo momento più nonna peppinista. Vede però, scusi Maurizio, chiuso. Bravo. Vede che però, Parlamento ne parliamo di chi ha avuto la primogenitura. Oh. In questo momento non ce ne frega niente, ha raggiunto l'obiettivo, punto e basta. Ettore, però si rende conto, Ettore, fermo un attimo, che la vera importanza del suo intervento è esattamente nel sottotesto. Il nonna peppinismo supera ogni ideologia, lo può dire questo? Esatto, lo dico e lo posso anche sottoscrivere. Benissimo. Io lancio una proposta semplicissima per tutte le nonne Peppina che sono state sotto il terremoto. Possiamo dire una cosa, Ettore, so che le farà male. Nonna Peppina è meglio di donna Rachele, faccia conto. Sì. Direi proprio di sì. Detto da lei, le porta dolore. No, non ho motivo per dire di no. Non esiste proprio. Non è inutile fasciarsi, cioè fare l'ipocrita. Non sono mai stato ipocrita. Senta che miracolo che è, però. Lei non avrebbe mai detto una cosa del genere. Sarebbe fatto spaccare i denti piuttosto che dirlo. Lo dice che nonna Peppina va sopra ogni tipo di ideologia. Esattamente, punto. Allora, la mia umile proposta è questa. Per i terremotati, dato che noi abbiamo il costo dell'energia più alto d'Europa, certo. Perché il governo non fa un emendamento per togliere definitivamente per un periodo di tempo le accise e l'IVA a queste persone che hanno avuto un problema alla vita disastrata? È un'umile proposta. Diciamo che il nonna peppinismo a questo punto scende sul piano delle trattative e potrebbe portare una proposta concreta. Lei la sta enunciando in maniera molto, molto netta. Questo è il regalo che lei porta a nonna Peppina. Grazie, Ettore. Maurizio. Sì, pronto, sono Maurizio. Cosa regalerebbe lei a nonna Peppina? Beh, rispondere al regalo che donna Peppina invece ha fatto a tutti noi italiani, che è il regalo più grande. E qual è? Lo descriva, qual è il regalo? La dignità, darci dignità. Nonna Peppina ha ridato la dignità. A noi la dignità. E i nostri politici hanno usato questo soltanto per abbiamo liberato questo. Beh, come dicevi tu giustamente, mi sembra, non c'è chiaro. Solo donna Peppina, ci sono donna Anna, nonna Antina, nonna Luciana, ce ne sono tantissime di persone. Non sarebbe una bella idea, Maurizio, una bella idea proporre la banconota, che ne so, da 30 euro con nonna Peppina sopra? Io non penso al denaro. No, ma dico come simbolo. Metterci la faccia in nonna Peppina, una nuova banconota, ho detto 30 euro ma potrebbe essere anche da 6 euro, non so, o anche da 55, che ne so, una banconota nuova che non c'è, proprio la faccia di nonna Peppina. Ma io credo che a livello europeo la donna Peppina ha fatto un regalo molto più grande, non soltanto a noi italiani, ma a tutta l'Europa. Dovrebbe andare a Bruxelles a parlare nonna Peppina, secondo ma me. Ma no, non è che dovrebbe andare a Bruxelles, è che mettere donna Peppina sopra una banconota e vuol dire eliminare tutte le altre donne che magari sono come donna Peppina, e non lo troverei corretto. Io penso che, come disse Sandra Mondaini, purtroppo che io conobbi tempo fa, quando vuoi fare del bene lo devi volere soltanto tu. Mi ha dato una grande lezione di vita, lei veramente c'ha ragione. Portare avanti l'immagine nonna Peppina è un oltraggio, un controsenso, un'aporia, una contraddizione al nonna peppinismo stesso. Il nonna peppinismo non vuole simboli, se non naturalmente quello di donna Peppina. Grazie Maurizio. Sergio. Buongiorno Nicoletti. Cosa regalerebbe a nonna Peppina? Ecco, io siccome quello che riuscirei a fare, siccome faccio il tassista, sì. E se viene a Milano sa che magari qualche politico li vuole mettere sul cappello questa certo. Cosa qua, io sono disponibile a portarla gratis in giro dove deve andare per Milano e poi riportarla e insomma anche regalargli delle corse gratis, poverina, così almeno la mia gratitudine lei può averla in maniera diretta. Ecco. Questo è un bel contributo. Sergio, tassista, dà un blocchetto di ticket di corse gratis a nonna Peppina. La scarrozza per tutta Milano, evitando la corsa dei politici, voglio farsi i selfie vicino a lei magari. Come? Tiene lontani, tutti quelli verrebbero a farsi il selfie subito, i politici, salgo anch'io, la prendo io. No, ma io ho i vetri scuri dietro, non la vedrebbe. Ah, in un taxi oscurato, in modo che nessuno avrebbe modo molto discreto di farsi bello con nonna Peppina. Questa è una bellissima. Amaranta, buongiorno. Buongiorno. Perché l'hanno chiamata Amaranta lei? Solo per sapere. Perché a quanto pare mio padre era amante di un testo di D'Annunzio. Che poi fu fatta una canzone, insomma. Fior d'amaranto per te tanto io pianto. Ah, boh, può essere, non lo so. Comunque questo. Era livornese mio padre, quindi ho anche il sospetto che ci sia dell'altro. E la chiamava, c'era una donna, si chiamava Amaranta. cara Maranta che me ne è data tanta, così era il motto di suo padre. Comunque andiamo avanti, cosa regalerebbe lei a nonna Peppina? Allora io a nonna Peppina regalerei la cassetta, cioè la cassetta, sì, boh. Il film comunque da qualche parte, di quello dove c'è Eduardo che insegna, mi pare sia loro il sindaco del Rione Sanità, che dice del pernacchio, dove insegna la pernacchia, perché tutto sommato mi pare questo tanto un buon modo per drammatizzare e togliere un pochino di stucchevolezza. Amaranta, scusa Amaranta, il pernacchio mi sembra giusto, ma lei sarebbe capace in questo momento di improvvisarlo, no, così lo registriamo e lo regaliamo a nonna Peppina? Come fa il pernacchio? Lo faccio. Oh, mamma mia. Ci provi? Vediamo. Con la mano fa meglio, magari. Provo. Aspetti. Non credo di riuscire. Io le do il via perché dobbiamo registrarlo pulito. Allora, Amaranta si produce nel pernacchio che regaleremo, noi campioneremo. Agli incipienti e arroganti. Con la bocca lo faccio, mi raccomando. Ci provo. No, riprovi, venuto benino, lo provi un po' meglio Amaranta. Lo provo senza la mano, dai. No, con la mano viene meglio perché fa così. Sente, No, rifaccia un po' meglio. Riprovi. Non ci riesco. No, bagni un pochino la superficie della mano, la umetti la mano. Ecco. Umetti? Viene schifoso. Schifoso, il pernacchio è la metafora di una comunque, cosa schifosa. Diciamo che c'è il sentimento. C'è il sentimento. Ci metto il sentimento. Allora, per nonna Peppina. La vestita simulata di Amaranta dimostra che nonna Peppina ha anche uno strumento sonoro per esprimere la sua centralità nella protesta degli italiani. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Voglio restare in questo paesino dove ci sono vissuta per 75 anni e voglio stare qui. Mi rendo conto che il nonna peppinismo ha veramente un taglio diverso rispetto a tutte le istanze, di tutte le proteste, di tutte le politiche, di tutti i movimenti. Avete ascoltato, noi abbiamo proposto, fate un regalo a nonna Peppina, e i regali sono immediatamente stabilizzati su un piano morale, su un piano etico, su un piano simbolico. Nessuno ha detto gli mandiamo una forma di formaggio, come avrebbe fatto qualcuno nella vecchia mentalità, nella vecchia politica, dare beni materiali. No, tutti si sono soffermati a pensare a qualcosa che abbia un forte valore di esempio verso nonna Peppina. Giuseppe, buongiorno. Ah, buongiorno, dottor Nicoletti. Dunque, il mio è diciamo, un'idea che sia anche un invito, perché a me colpisce molto il fatto che si chiami nonna. La nonna a quell'età sicuramente avrebbe bisogno anche di avere dei nipotini vicino, diciamo. Beh, ma una famiglia molto affettuosa che l'ha molto sostenuta comunque, non è sola. Ma non è per quello, dicevo, secondo me gli anni sono finiti, no? No, non si muova perché si sente un po' male. Fermi un attimo, sennò. Sì, niente? Sì. Proviamo. Ok, siamo qui. Allora, dicevo di invitare tutti quelli che stanno in zona, se lo possono permettere, con le macchine, cioè, di andare a trovare in questo periodo di feste, adottandola. L'adozione si può fare anche attraverso. Cioè, non lasciarla sola, ma farle compagnia. No, per farle sentire che si va fuori dall'ideologia, come lei giustamente diceva prima, cioè che c'è un colore umano, che tutta questa vicenda, poi alla fine le persone che si sono avvicinate a lei con le varie motivazioni, in realtà poi magari, vorrei essere ottimista, sotto, è perché si sa che una persona anziana, comunque anche se c'è i figli, i parenti, eccetera. Fagli sentire che adesso che non ci sia soltanto le telecamere di Barbara D'Urso, ci sia anche il calore umano delle persone, perché la D'Urso è chiaro emette calore con tutta quella luce che è intorno, emetterà anche molto calore, ma anche il calore umano, quello spontaneo. Sentiamo Marco velocemente, cosa regalerebbe a nonna Peppina? Buongiorno, oro, incenso e mirra. Come a Gesù Cristo, scusi. No, oro perché ha mosso l'economia. Incenso per onorare i nonni, mirra per pensare al fine vita o al dopo di noi. Vabbè, quello va, a noi nonni e mi faccia per ungere il nostro corpo. Ah, per ungere il corpo, cioè l'estrema unzione. Vabbè, non so. No, dopo. Quando c'è un cadavere. Io non so nemmeno dove si compra la mirra, sinceramente. Comunque va bene. Agata Turchetti, buongiorno. Buongiorno a lei. È contenta? Oh, Agata Turchetti è la figlia maggiore di nonna Peppina. È felice di tutto questo moto di affetto che viene dall'Italia nei confronti, sì, di sua madre? Molto, molto. Ho ascoltato con immenso piacere le telefonate che sono giunte alla sua trasmissione e ringrazio per i doni da fare a... Senta, come è stabilizzata adesso sua madre? Mamma è ancora nel container, perché naturalmente questa norma non è ancora operativa. Mi auguro che questo accada al più presto. Vi ha contattato? E che lei possa tornare. Vi ha contattato qualcuno, salita, signora Turchetti? Qualcuno vi ha chiamato questa mattina per dirvi: guarda, stiamo lavorando per voi, oppure no? No, a me no. Come? Non ho sentito mia sorella, e quindi non so se questo sia accaduto con lei. Però noi abbiamo letto i giornali. So che mia sorella nel pomeriggio di ieri ha partecipato ad alcune trasmissioni radiofoniche per commentare questa notizia, che naturalmente ci riempie di felicità. L'avete comunicato a nonna Peppina che tornerà alla sua casetta? Assolutamente sì, mia mamma lo ha saputo perché un nostro amico di famiglia le ha telefonato non appena ha ascoltato la trasmissione cui stava partecipando mia sorella. Quindi nonna Peppina è stata informata da altri prima ancora che dai suoi familiari. Non trova singolare, signora Agata Turchetti, però, che una notizia così importante non sia comunicata attraverso le vie istituzionali, ma la sappiate per caso perché se ne parla alla radio? Sì, guardi, io non voglio entrare oggi, proprio per rispetto dello spirito bellissimo su cui lei ha impostato guardi, la trasmissione. Noi abbiamo dato corpo, sì, al nonna peppinismo, che è un movimento, sì, pieno, ecco, di valori. È un movimento bellissimo che sicuramente non è finito, perché ci sono altre battaglie. Siamo solo agli inizi, certo, siamo solo agli inizi. Siamo solo agli inizi, e a me permetta di esprimere l'orgoglio della figlia. Io amo profondamente i miei genitori, è un amore viscerale che mi lega a mia madre e anche a mio padre, che purtroppo non c'è più, ma... Però la guarda comunque, dove sta in questo momento, la guarda, sarà contento. Assolutamente sì, perché sono certa che al di là delle convinzioni religiose, i nostri cari, i nostri genitori vivano nel DNA, non solo genetico ma anche culturale, che ci hanno trasmesso. State preparando i bagagli, cioè le poche cose? Avrà delle poche cose nel container, immagino, soltanto sì, il minimo indispensabile. Non servirà molto per riportare nella casetta ciò che abbiamo trasportato. E come sono state queste giornate nel container? Faceva molto freddo? Sono state faticose. No, ma all'interno non fa molto freddo, perché naturalmente c'è una stufetta che svolge egregiamente il suo compito. Ma lei immagini di vivere in 10 metri quadrati, dove ci sono la cucina, la camera da letto, il salotto, e di avere il bagno esterno, all'esterno, e quindi bisogna raggiungere imbacuccandosi anche nel cuore della notte. Se la notte donna Peppina ha un bisognino, deve uscire a piedi e andare in mezzo alla neve dentro il bagno esterno, che naturalmente è a ridosso del container, però bisogna uscire con la neve, si ghiaccia. Non dimenticare che le temperature in Appennino sono scese notevolmente, perché sui monti è arrivata la neve, e in queste giornate così dense di pioggia il disagio naturalmente è ancora. Agata Turchetti, stia tranquilla, vedrà che grazie al nonna peppinismo e alla sua forza, presto nonna Peppina avrà il suo gabinetto a portata di mano. Grazie a lei, grazie a tutti quelli che hanno contribuito a questo immenso miracolo. Alla prossima.